Una gran parte della classe media si rallegrò del golpe militare perché significava il ritorno all'ordine, all'austerità dei costumi, le gonne alle donne, i capelli corti agli uomini, ma ben presto cominciò a soffrire il tormento dei prezzi alti e la mancanza di lavoro. Lo stipendio non bastava per mangiare. In ogni famiglia c'era qualcuno da compiangere e non potevano dire più, come all'inizio, che se era prigioniero, morto o in esilio era perché se lo meritava. Non poterono neppure continuare a negare la tortura. Mentre prosperavano i negozi di lusso, le agenzie miracolose, i ristoranti esotici e le ditte di importazione, ai cancelli delle fabbriche facevano la coda i disoccupati in attesa di trovare lavoro per una paga giornaliera minima. La manodopera scese a livelli di schiavitù e i proprietari poterono per la prima volta dopo molti decenni licenziare i lavoratori a loro piacimento senza pagar loro indennità e farli arrestare alla minima protesta. Nei primi mesi il senatore Trueba seguì l'opportunismo di quelli della sua classe. Era convinto che fosse necessario un periodo di dittatura perché il paese tornasse all'ovile dal quale non avrebbe mai dovuto uscire. Fu uno dei primi proprietari terrieri a tornare in possesso delle sue terre. Gli restituirono la tenuta delle Tre Marie in rovina, ma integra sino all'ultimo metro quadro. Erano quasi 2 anni che stava aspettando quel momento, ruminando la sua rabbia. Senza pensarci 2 volte, se ne andò in campagna con una mezza dozzina di bravacci a pagamento e poté vendicarsi a suo piacimento dei contadini che avevano osato sfidarlo e togliergli il suo. E arrivarono in un luminoso mattino di domenica, poco prima di Natale. Entrarono nella tenuta con uno schiamazzo da pirati. I bravacci si infilarono in ogni dove, sospingendo la gente con grida, percosse e calci. Riunirono nel cortile gli uomini e le bestie e poi irrorarono di benzina le casette di mattoni, che prima erano state l'orgoglio di Trueba, e vi appiccarono il fuoco con tutto quello che contenevano. Ammazzarono le bestie a colpi d'arma, bruciarono i campi arati, i pollai, le biciclette, persino le culle dei neonati, in una tregenda di mezzogiorno che per poco non fece crepare di gioia il vecchio Trueba. Licenziò tutti i mezzadri con l'avviso che se li avesse rivisti a gironzolare per la proprietà avrebbero subito la stessa sorte degli animali. Li vide partire più poveri di quanto non fossero mai stati in una lunga e triste processione, portandosi appresso i loro bambini, i loro vecchi, i pochi cani che erano sopravvissuti al massacro, qualche gallina salvata dall'inferno, strascicando i piedi nella strada di polvere che li allontanava dalla terra dove avevano vissuto per generazioni. Davanti alle Tre Marie c'era un gruppo di gente miserabile che aspettava con occhi ansiosi. Erano altri contadini disoccupati, cacciati da altre tenute, che arrivavano umili come i loro antenati un secolo prima, a pregare il padrone perché desse loro lavoro per il prossimo raccolto. Quella notte Esteban Trueba dormì nel letto di ferro che era stato dei suoi genitori, nella vecchia casa padronale dove non era più stato da molto tempo. Era stanco e aveva appiccicato al naso l'odore dell'incendio e dei corpi degli animali che avevano dovuto bruciare affinché la putredine non infettasse l'aria. I resti delle casette di mattoni ardevano ancora e intorno a lui tutto era distruzione e morte. Ma lui sapeva che poteva rimettere in sesto la campagna, proprio come aveva fatto una volta, dato che i campi erano intatti e le sue forze anche. Nonostante il piacere della sua vendetta, non riuscì a dormire. Si sentiva come un padre che avesse punito i suoi figli con eccessiva severità. Per tutta la notte continuò a vedere i volti dei contadini che aveva visto nascere nella sua proprietà, allontanarsi lungo la strada. Maledisse il suo pessimo carattere e non riuscì a dormire neppure per il resto della settimana. E quando ci riuscì, sognò Rosa. Decise di non raccontare a nessuno quello che aveva fatto e giurò a se stesso che le Tre Marie sarebbero tornate a essere la tenuta modello che erano state una volta. Fece correre voce che era disposto a riaccettare i mezzadri a certe condizioni, evidentemente, ma nessuno tornò. Si erano dispersi per i campi, per le colline, lungo la costa. Qualcuno era arrivato a piedi sino alle miniere, altri nelle isole del sud, cercando ciascuno il pane per la propria famiglia con qualsiasi attività. Deluso, il padrone tornò alla capitale sentendosi più vecchio che mai. Gli pesava l'anima. Il poeta agonizzò nella sua casa vicino al mare. Era malato e gli eventi degli ultimi tempi esaurirono il suo desiderio di vivere. La truppa gli aveva violato la casa, avevano rovistato tra le sue collezioni di conchiglie, di chiocciole, tra le sue farfalle, le sue bottiglie, le sue polene riscattate da tanti mari, tra i suoi libri, tra i suoi quadri, tra i suoi versi inconclusi, cercando armi sovversive e comunisti nascosti, finché il suo vecchio cuore di bardo non aveva cominciato a vacillare. Lo portarono alla capitale, morì 4 giorni dopo e le ultime parole dell'uomo che aveva cantato alla vita furono: li fucilarono, li fucileranno. Nessuno dei suoi amici poté stargli vicino nell'ora della morte perché erano fuori legge, profughi, esiliati o morti. La sua casa azzurra in collina era semi-rovinata, il pavimento bruciato e i vetri rotti. Non si sapeva se fosse opera dei militari, come dicevano i vicini, o dei vicini, come dicevano i militari. Lì lo vegliarono quei pochi che osarono recarvici, sì, e giornalisti alla notizia del suo funerale. Il senatore Trueba era suo nemico ideologico, ma l'aveva avuto spesso in casa sua e conosceva a memoria i suoi versi. Si presentò alla veglia funebre, vestito di nero con sua nipote Alba. Entrambi montarono la guardia accanto alla semplice bara di legno e lo accompagnarono sino al cimitero nella sventurata mattina. Alba teneva in mano un mazzo dei primi garofani della stagione, rossi come il sangue. Il piccolo corteo percorse a piedi lentamente la strada del Camposanto tra le due file di soldati che facevano cordone nelle strade. La gente camminava in silenzio. D'improvviso qualcuno gridò roccamente il nome del poeta e una sola voce a piena gola rispose: presente, ora e sempre. Fu come se avessero aperto una valvola e tutto il dolore, la paura e la rabbia di quei giorni fossero usciti dai petti e circondassero la strada e salissero in un terribile clamore fino ai neri nuvoloni del cielo. Un altro grido: compagno presidente! E tutti risposero in un unico lamento, pianto di uomo: presidente! A poco, il funerale del poeta si tramutò nell'atto simbolico di seppellire la libertà. Molto vicino ad Alba e a suo nonno, i cameraman della televisione svedese filmavano per inviare al gelido paese del Nobel la visione spaventosa delle mitragliatrici appostate ai due lati della strada, le facce della gente, la bara coperta di fiori, il gruppo di donne silenziose che si accalcavano alle porte dell'obitorio, a due isolati dal cimitero per leggere la lista dei morti. La voce di tutti si levò in un canto e l'aria si riempì delle frasi proibite, gridando che el pueblo unido jamás será vencido, fronteggiando le armi che tremavano nelle mani dei soldati. Il corteo passò davanti a una costruzione e gli operai, gettando a terra i loro strumenti, si tolsero il casco e formarono una fila a testa bassa. Un uomo marciava con la camicia lacera ai polsini, senza gilet, e con le scarpe rotte, recitando i versi più rivoluzionari del poeta, con le lacrime che gli scendevano sulla faccia. Lo seguiva lo sguardo attonito del senatore Trueba che camminava al suo fianco. Peccato che fosse comunista, disse il senatore a suo nipote. Un così bravo poeta e con le idee tanto confuse, se fosse morto prima del pronunciamento militare, immagino che avrebbe ricevuto un omaggio nazionale. Ha saputo morire come aveva saputo vivere, nonno, replicò Alba. Era convinta che era morto a tempo debito, perché nessuna cerimonia avrebbe potuto essere più grande di quella modesta sfilata di pochi uomini e donne che lo seppellirono in una tomba prestata, gridando per l'ultima volta i suoi versi di giustizia e di libertà. 2 giorni dopo apparve sui giornali un annuncio della giunta militare che decretava lutto nazionale per il poeta e autorizzava a mettere bandiere a mezz'asta nelle case private che lo desiderassero. L'autorizzazione aveva la durata dal giorno della sua morte sino al giorno in cui era apparso l'annuncio. Così, come non aveva potuto sedersi a piangere la morte di suo zio Jaime, Alba non poté perdere la testa pensando a Miguel o compiangendo il poeta. Sempre intenta a indagare sugli scomparsi, a consolare i torturati che tornavano con le spalle in carne viva e gli occhi stravolti, e a cercare cibo per le mense dei preti. Tuttavia, nel silenzio della notte, Quando la città perdeva la sua utilità strumentale e la sua pace da operetta, lei si sentiva braccata dai pensieri tormentosi che aveva messo a tacere durante il giorno. A quell'ora solo i furgoni pieni di cadaveri e di arrestati e le auto della polizia circolavano per le strade, come lupi, sperduti, ululanti nell'oscurità del coprifuoco. Alba tremava nel suo letto. Le apparivano i fantasmi straziati di tanti morti sconosciuti, udiva la grande casa respirare con un ansito da vecchia. Aguzzava l'udito e sentiva nelle ossa i rumori temuti, una frenata lontana, uno sbattere di porte, i passi degli stivali, un grido sordo. Poi tornava il lungo silenzio che durava sino all'alba, quando la città riviveva e il sole sembrava cancellare i terrori della notte. Non era l'unica a non dormire nella casa. Spesso incontrava suo nonno in camicia da notte e pantofole, più vecchio e più triste che di giorno, intento a scaldarsi una tazza di brodo, masticando bestemmie da filibustiere perché gli facevano male le ossa e l'anima. Anche sua madre trafficava in cucina o girava come un fantasma di mezzanotte attraverso le stanze vuote. Così trascorsero i mesi e divenne chiaro per tutti, anche per il senatore Trueba, che i militari si erano presi il potere per tenerselo e non per consegnare il governo ai politici di destra che avevano favorito il golpe. Erano di una razza a parte, fratelli tra di loro che parlavano un linguaggio diverso da quello dei civili e con i quali il dialogo era come una conversazione tra sordi, perché il minimo dissenso era considerato tradimento secondo il loro rigido codice d'onore. Trueba vide che avevano piani messianici che non includevano i politici. Un giorno discusse della situazione con Blanca e con Alba, si lamentò che l'azione dei militari, il cui proposito era di scongiurare il pericolo di una dittatura marxista, avesse condannato il paese a una dittatura molto più severa e, da quanto si poteva vedere, destinata a durare un secolo. Per la prima volta in vita sua, il senatore Trueba ammise di essersi sbagliato. Sprofondato nella sua poltrona come un vecchio finito, lo videro piangere silenziosamente. Non piangeva per la perdita del potere, stava piangendo per la sua patria. Allora Blanca si inginocchiò al suo fianco, gli prese la mano e confessò che Pedro III García viveva come un anacoreta nascosto in una delle stanze abbandonate che Clara aveva fatto costruire all'epoca degli spiriti. Il giorno successivo al golpe erano state pubblicate liste delle persone che dovevano presentarsi davanti alle autorità e il nome di Pedro III García era tra quelle. Qualcuno che continuava a pensare che in quel paese non succedeva mai nulla era andato spontaneamente a consegnarsi al Ministero della Difesa e aveva pagato con la sua vita, ma Pedro III aveva avuto prima degli altri il presentimento della ferocia del nuovo regime, forse perché durante quei 3 anni aveva imparato a conoscere le forze armate e non credeva che fossero diverse da quelle di altri posti. Quella stessa notte, durante il coprifuoco, si era trascinato fino alla grande casa dell'angolo e aveva chiamato Blanca dalla finestra. Quando lei si era affacciata con la vista annebbiata dal mal di testa, non l'aveva riconosciuto perché si era tagliato la barba e portava gli occhiali. «Hanno ammazzato il presidente!» disse Pedro III. Lei lo nascose nelle stanze vuote, sistemò un rifugio d'emergenza senza sospettare che avrebbe dovuto tenerlo nascosto per diversi mesi mentre i soldati setacciavano il paese per trovarlo. Blanca aveva pensato che a nessuno sarebbe venuto in mente che Pedro III García si trovasse in casa del senatore Trueba, che a sua volta se ne stava ad ascoltare in piedi il Te Deum nella cattedrale. Per Blanca fu il periodo più felice della sua vita. Per lui, tuttavia, le ore trascorrevano con la stessa lentezza che se fosse stato arrestato. Passava la giornata tra quattro pareti con la porta chiusa a chiave perché a nessuno venisse in mente di entrare a fare pulizia e la finestra con le persiane chiuse e le tende tirate. Non entrava la luce del giorno, ma poteva immaginarla dal tenue mutamento delle fessure delle persiane. Di notte spalancava la finestra per far cambiare l'aria alla stanza, dove teneva un recipiente coperto per fare i suoi bisogni e per respirare a pieni polmoni l'aria della libertà. Occupava il tempo leggendo i libri di Jaime che a poco Blanca gli portava di nascosto, ascoltando i rumori della strada, i sussurri della radio accesa al volume più basso. Blanca gli procurò una chitarra alla quale mise stracci di lana sotto le corde perché nessuno lo sentisse comporre in sordina le sue canzoni sulle vedove, sugli orfani, sui prigionieri e sugli scomparsi. Fece in modo di organizzare un orario sistematico per riempire il giorno. Faceva ginnastica, leggeva, studiava inglese, faceva la siesta, scriveva musica e faceva di nuovo ginnastica, ma con tutto questo gli rimanevano interminabili ore di ozio, finché non sentiva la chiave nella serratura della porta e vedeva entrare Blanca che gli portava i giornali, il cibo, l'acqua pulita per lavarsi. Facevano l'amore con disperazione, inventando nuove formule proibite che la paura e la passione trasformavano in viaggi allucinati alle stelle. Blanca si era già rassegnata alla castità, alla maturità e ai suoi svariati acciacchi, ma il sussulto dell'amore le diede un'altra giovinezza. Si accentuò la luce della sua pelle, il ritmo del suo passo e il tono della sua voce. Sorrideva dentro e si muoveva come addormentata. Non era mai stata così bella. Perfino suo padre se n'era accorto e l'aveva attribuito alla pace dell'abbondanza. Da quando Blanca non deve più fare la coda, sembra come nuova, diceva il senatore Trueba. Anche Alba l'aveva notato, osservava sua madre, il suo strano sonnambulismo le sembrava sospetto, così come la sua nuova mania di portarsi da mangiare in camera. Più volte aveva pensato di spiarla di notte, ma la stanchezza delle sue molteplici incombenze assistenziali la vinceva e quando soffriva di insonnia aveva paura di avventurarsi per le stanze vuote dove sussurravano i fantasmi. Pedro III dimagrì e perse il suo buon umore e la dolcezza che l'avevano caratterizzato fino ad allora. Si annoiava, malediceva la sua prigionia volontaria e ardeva di impazienza per avere notizie dei suoi amici. Solo la presenza di Blanca lo acquietava. Quando lei entrava nella stanza si lanciava ad abbracciarla come un pazzo per calmare i terrori del giorno e il tedio delle settimane. Cominciò a essere ossessionato dall'idea di essere un vigliacco e un traditore perché non aveva condiviso la sorte di tanti altri e gli sembrava che la cosa più onorevole sarebbe stata quella di consegnarsi e di affrontare il suo destino. Blanca cercava di dissuaderlo con i suoi migliori argomenti, ma lui pareva non ascoltarla. Cercava di trattenerlo con la forza dell'amore recuperato, gli dava da mangiare, imboccandolo, gli faceva il bagno, sfregandolo con un panno umido, incipriandolo come un bambino, gli tagliava i capelli, le unghie, gli faceva la barba. E infine, però, dovette cominciare a mettergli pastiglie tranquillanti nel cibo e sonniferi nell'acqua per immergerlo in un sonno profondo e tormentato dal quale si svegliava con la bocca secca e il cuore più triste. Dopo pochi mesi Blanca si era accorta che non avrebbe potuto tenerlo sempre prigioniero e abbandonò i suoi piani di ridurgli lo spirito per trasformarlo nel suo amante perpetuo. Capì che stava morendo vivo perché la libertà era per lui più importante dell'amore e che non ci sarebbero state pillole miracolose capaci di fargli cambiare pensiero. Aiutami, papà, supplicò Blanca, devo farlo uscire dal paese. Il vecchio rimase paralizzato dallo stupore e comprese fino a che punto era ridotto, cercando la sua rabbia e il suo odio e non trovandoli da alcuna parte. Pensò a quel contadino che aveva spartito un amore di mezzo secolo con sua figlia e non riuscì a trovare motivo per detestarlo. Neppure il suo mantello, la sua barba da socialista, la sua tenacia o le sue maledette galline perseguitate dalle volpi. Accidenti! Dovremmo cercargli asilo politico perché se lo trovano in questa casa ci fregano tutti. Fu l'unica cosa che gli venne da dire. Blanca gli gettò le braccia al collo e lo coprì di baci piangendo come una bambina. Era la prima carezza spontanea che faceva a suo padre dalla più remota infanzia. Io posso farlo entrare in un'ambasciata, disse Alba, ma dobbiamo aspettare il momento propizio e dovrà scavalcare un muro. Non sarà necessario, figliola, replicò il senatore Trueba, ho ancora amici influenti in questo paese. 48 ore dopo si aprì la porta di Pedro III Garcia, ma invece di Blanca sulla soglia apparve il senatore Trueba. Il fuggiasco pensò che era infine giunta la sua ora e in un certo qual modo se ne rallegrò. Vengo a portarla via di qui, disse Trueba. Perché? Chiese Pedro III. Perché Blanca me l'ha chiesto, rispose l'altro. Vada al diavolo, balbettò Pedro III. Bene, ci andremo, lei viene con me. I due sorrisero, simultaneamente. Nel cortile della casa stava aspettando la limousine argentata di un ambasciatore del Nord. Misero Pedro III nel baule posteriore del veicolo, rattrappito come un fagotto, e lo coprirono con sacchetti del mercato pieni di verdura. Sui sedili si sistemarono Blanca, Alba e il senatore Trueba e il suo amico l'ambasciatore. L'autista li portò all'Annunziatura Apostolica, passando davanti a una barriera di carabinieri senza che nessuno li fermasse. Al cancello dell'Annunziatura c'era doppia vigilanza, ma riconoscendo il senatore Trueba e vedendo l'emblema diplomatico dell'automobile, li lasciarono passare con un saluto. Oltre il cancello, in salvo nella sede del Vaticano, tirarono fuori Pedro III, recuperandolo da sotto una montagna di foglie di lattuga e di pomodori schiacciati. Lo condussero nell'ufficio del nunzio che li aspettava, vestito con l'abito vescovile e provvisto di un fiammante salvacondotto per mandarlo all'estero insieme a Blanca, che aveva deciso di vivere nell'esilio l'amore procrastinato della sua infanzia. Il nunzio gli diede il benvenuto, era un ammiratore di Pedro III Garcia e possedeva tutti i suoi dischi. Mentre il sacerdote e l'ambasciatore del Nord discutevano della situazione internazionale, la famiglia si accomiatò. Blanca e Alba piangevano sconsolatamente. Non erano mai state separate. Esteban Trueba abbracciò a lungo sua figlia, senza lacrime, ma con le labbra strette, tremante, sforzandosi di trattenere i singhiozzi. «Non sono stato un buon padre per lei, figlia», disse. «Crede che potrà perdonarmi e dimenticare il passato?» «Le voglio molto bene, papà», disse Blanca, gettandogli le braccia al collo, serrandolo con disperazione e coprendolo di baci. Poi il vecchio si volse verso Pedro III e lo guardò negli occhi. Gli tese la mano, ma non poté stringere quella dell'altro perché gli mancava qualche dito. Allora aprì le braccia e i due uomini, in una stretta muta, si salutarono, finalmente liberi dagli odi e dai rancori che per tanti anni avevano macchiato la loro coscienza. «Baderò a sua figlia e farò in modo di renderla felice, signore», disse Pedro III Garcia con voce rotta. «Non ne dubito. Andatevene in pace, figlioli», mormorò il vecchio. Il senatore Trueba rimase solo nella casa con sua nipote e qualche servitore. Almeno così credeva, ma Alba aveva deciso di adottare l'idea di sua madre e usava la parte abbandonata della casa per nascondere gente per una o due notti, fino a trovare un altro posto più sicuro o il modo di farli uscire dal paese. Aiutava quelli che vivevano nell'ombra, fuggendo di giorno, mescolati alla confusione della città, ma che al cadere della notte dovevano stare nascosti, ogni volta in un posto diverso. Le ore più pericolose erano quelle del coprifuoco, quando i fuggiaschi non potevano uscire in strada e la polizia poteva dar loro la caccia a suo piacimento. Alba pensava che la casa di suo nonno fosse l'ultimo posto dove avrebbero cercato. A poco trasformò le stanze vuote in un labirinto di angoli segreti dove nascondeva i suoi protetti, talvolta famiglie complete. Il senatore Trueba occupava solo la biblioteca, il bagno e la sua camera da letto. Lì viveva, circondato dai suoi mobili di mogano, le sue vetrine vittoriane, i suoi tappeti persiani. Anche per un uomo così poco propenso ai presentimenti come lui, quella dimora ombrosa era inquietante, sembrava racchiudere un mostro occulto. Trueba non capiva la causa della sua inquietudine, perché lui sapeva che i rumori strani che i servitori dicevano di udire provenivano da Clara, che vagava per la casa in compagnia dei suoi spiriti amici. Aveva sorpreso spesso sua moglie scivolare per i saloni con la sua bianca tunica e la sua risata di ragazza. Fingeva di non vederla, restava immobile, smetteva perfino di respirare per non spaventarla. Se chiudeva gli occhi, facendo finta di dormire, poteva sentire la carezza tenue delle sue dita sulla fronte, il suo fiato fresco passare come un soffio, il solletico dei suoi capelli a portata di mano. Non aveva motivo di sospettare qualcosa di anormale, tuttavia faceva in modo di non avventurarsi nella regione incantata che era il regno di sua moglie, e il punto più lontano in cui si spingeva era la zona neutrale della cucina. La sua antica cuoca se n'era andata perché in una sparatoria avevano ammazzato per sbaglio suo marito, e il suo unico figlio, che stava facendo servizio militare in un villaggio del sud, era stato impiccato a un palo con le budella arrotolate intorno al collo, come vendetta della popolazione per aver eseguito gli ordini dei suoi superiori. superiori. La povera donna aveva perso la ragione e poco dopo Trueba aveva perso la pazienza, stufo di trovare nel cibo i capelli che lei si strappava per la disperazione. Per un certo tempo Alba aveva cercato di sostituirla servendosi di un libro di ricette, ma nonostante la sua buona volontà, Trueba si era infine risolto a cenare quasi tutte le sere al club, per fare almeno una volta al giorno un pasto decente. Alba ebbe così maggiore libertà per il suo traffico di fuggiaschi e maggior sicurezza per far entrare e uscire gente dalla casa prima del coprifuoco, senza che suo nonno nutrisse sospetti. Un giorno comparve Miguel. Lei stava entrando in casa nella piena luce della siesta quando lui le andò incontro. Era rimasto ad aspettarla nascosto tra i cespugli del giardino, si era tinto i capelli di un pallido color giallo e indossava un abito blu a doppio petto. Sembrava un comune impiegato di banca, ma Alba lo riconobbe perfettamente e non poté trattenere un grido di gioia che le era salito dalle viscere. Si abbracciarono nel giardino, davanti alla gente che passava e a chi voleva guardare, finché la paura non tornò in loro e capirono il pericolo. Alba lo guidò dentro la casa, nella sua camera. Caddero sul letto in un nodo di braccia e di gambe, chiamandosi l'un l'altro con i nomi segreti che usavano ai tempi della cantina. Si amarono con disperazione finché non sentirono che la vita sfuggiva e che l'anima scoppiava, e dovettero rimanere quieti, ascoltando gli strepitosi battiti dei loro cuori per tranquillizzarsi un po'. Allora Alba lo guardò per la prima volta e vide che aveva arruzzato con un perfetto sconosciuto, che non solo aveva capelli da vichingo, ma che non aveva neppure la barba di Miguel, né i suoi piccoli occhiali da precettore, e sembrava molto più magro. «Sei orribile!» gli soffiò all'orecchio. Miguel era diventato uno dei capi della guerriglia, seguendo così il destino che si era preparato fin dall'adolescenza. Per scoprire dove si nascondeva avevano interrogato molti uomini e molte donne, cosa che pesava ad Alba come una pietra da mulino sul suo spirito, ma per lui era solo una parte dell'orrore della guerra ed era disposto a correre la stessa sorte quando fosse giunto il momento di proteggere gli altri. Intanto lottava nella clandestinità, fedele alla sua teoria secondo cui alla violenza dei ricchi bisogna opporre la violenza del popolo. Alba, che l'aveva immaginato mille volte arrestato o ucciso in qualche modo orribile, piangeva di gioia, assaporando il suo odore, la sua pelle, la sua voce, il suo calore, la carezza delle sue mani callose per l'uso delle armi e l'abitudine di strisciare, pregando e maledicendo e baciandolo e odiandolo per tante sofferenze accumulate e desiderando morire in quello stesso momento per non dover soffrire più a causa della sua assenza. Avevi ragione, Miguel. È successo tutto quello che dicevi che sarebbe successo, ammise Alba singhiozzando sulla sua spalla. Poi gli raccontò delle armi che aveva rubato a suo nonno e che aveva nascosto con suo zio Jaime e si offrì di accompagnarlo a prenderle. Le sarebbe piaciuto dargli anche quelle che non erano riusciti a rubare e che erano rimaste nel ripostiglio della casa, ma pochi giorni dopo il golpe militare avevano ordinato alla popolazione di consegnare tutto quanto potesse essere considerato un'arma, persino i coltelli dei giovani esploratori e i temperini dei piccoli. La gente lasciava i suoi pacchetti avvolti in carta di giornale dinanzi alle porte delle chiese perché non osava portarli nelle caserme, ma il senatore Trueba, che possedeva armamenti da guerra, non ebbe alcun timore perché le sue erano destinate ad ammazzare i comunisti, come tutti sapevano. Telefonò a un suo amico, il generale Hurtado, e questi mandò un camion dell'esercito a ritirarle. Trueba condusse i soldati nella stanza delle armi e lì poté constatare, muto per la sorpresa, che metà delle casse erano piene di pietre e di paglia. Ma capì che se avesse ammesso la perdita avrebbe compromesso qualcuno della sua famiglia o si sarebbe cacciato lui stesso in un pasticcio. Presentò scuse che nessuno gli stava chiedendo, visto che i soldati non potevano sapere il numero delle armi che aveva comprato. Sospettava di Blanca e di Pedro Terzo Garcia, ma anche le guance imporporate di sua nipote lo fecero dubitare. Dopo che i soldati si furono portati via le casse, firmandogli una ricevuta, Prese Alba per le braccia e la scosse come non aveva mai fatto perché confessasse se sapeva qualcosa dei mitra e dei fucili mancanti. Non mi chiedere quello che non vuoi che ti risponda, nonno, aveva risposto Alba guardandolo negli occhi. E non riparlarono mai più della cosa. Tuo nonno è un disgraziato, Alba. Qualcuno lo ammazzerà come merita, disse Miguel. Oh, morirà nel suo letto, è già molto vecchio, disse Alba. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Può darsi che un giorno lo ammazzi io stessa. Oh, che Dio non voglia, Miguel, perché mi costringeresti a fare lo stesso con te, rispose Alba ferocemente. Miguel le spiegò che non avrebbero potuto vedersi per molto tempo, forse mai più. Cercò di razionalizzare con lei il pericolo che comportava essere la compagna di un guerrigliero, benché fosse protetta dal cognome del nonno, ma lei pianse tanto e lo abbracciò con tanta angoscia che dovette prometterle che anche a rischio della vita avrebbe cercato l'occasione per vederla qualche volta. Miguel acconsentì pure a recarsi con lei a cercare le armi e le munizioni sotterrate in montagna, perché era quello di cui aveva più bisogno nella sua lotta temeraria. Spero che non siano diventate ferro vecchio, mormorò Alba. E che io riesca a ricordare il posto esatto, perché è passato più di un anno.